Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Io non sono più disponibile a sentire la parola buonista, proprio non ne posso più. Questo ti dico, cioè proprio mi ha rotto le palle in un modo pazzesco. Insomma, lui si è rotto molto Fabio Fazio, ma quanto a buonismo, diciamo, almeno relativamente alla politica, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, non si può certo parlare effettivamente di buonismo, in genere è sempre stato così, ma specie in questi giorni, specie dopo il match ieri tra Renzi e Grillo, tra battute sferzanti, pesci in faccia, e anche dopo che oggi, per esempio, Cicchito del Nuovo Centrodestra, che dovrebbe essere forse ospite più tardi qui Effetto Notte, ha detto che Renzi è un utile idiota, che è una frase, un'espressione, che è un complimento, diciamo, che è molto in voga ultimamente nella politica italica. L'unico forse con sfumature buoniste può essere stato oggi Silvio Berlusconi, che ha detto a proposito di Renzi, ai suoi, ha detto non è certo un comunista, forse ha detto non è certo un comunista, insomma sembra che per il momento lo guardi con benevolenza. Bene, la politica naturalmente sarà uno degli argomenti centrali anche questa sera, dopo il racconto che vi farò nel primo quarto d'ora della giornata, e vi chiedo quale nome vorreste assolutamente presente tra i ministri che Renzi presenterà sabato. Ha promesso che entro sabato presenterà la sua squadra di governo. Quale nome vorreste che fosse assolutamente presente? Scrivetelo sulla pagina Facebook di Effetto Notte, oppure ai messaggi al 349-238-6666. Io intanto, come vi dicevo, vi racconto la giornata. Partendo dall'Ucraina, ormai è guerra civile, spari per la strada, evacuati i palazzi del potere, almeno 100 le vittime e l'Europa vara le sanzioni. Governo strada ancora in salita, manca l'accordo su riforme ed economia, ma Renzi è ottimista. Napoli si suicida un commerciante dopo essere stato multato perché la moglie lo aiutava senza contratto. Olimpiadi di Sochi, Caroline Kostner, è il suo momento, ma mancano le più temibili rivali ancora. Comunque la medaglia di bronzo dovrebbe essere assicurata. Sanremo, dopo il flop della seconda serata, al via la terza con omaggio ad Abbado, e poi vedo il finale di due partite di Europa League, la Fiorentina che batte 3-1 l'Esbjerg e la Juventus che batte 2-0 il Trabzonspor. Partiamo quindi dalla terribile situazione in cui si trova l'Ucraina, in particolare la sua capitale Kiev. Si parla di almeno 100 morti, di centinaia di feriti negli scontri tra manifestanti, antiregime e la polizia, però questo è un tema che poi approfondiremo tra poco con due esperti. Passiamo invece alla politica italiana. C'è stata un po' una fumata nera nella prima riunione di maggioranza, nel primo vertice che si è tenuto oggi. I nodi da sciogliere sono l'economia e la legge elettorale. Entro poche ore chiudiamo tutto. Mostra ottimismo Matteo Renzi dopo una giornata contraddistinta dai tanti malumori di quelle forze politiche che con il leader del PD dovrebbero andare a Palazzo Chigi, tra tutti il Nuovo Centrodestra, così Quagliariello. È evidente che insomma, sono stati soltanto esposti dei punti, quindi è assolutamente normale che delle criticità ci siano. Ora, insomma, nelle prossime ore bisognerà vedere se si risolve. Due le preoccupazioni di Alfano. La prima è personale: Renzi non lo vorrebbe nella squadra di governo. Secondo il premier incaricato è necessario cambiare totalmente le persone rispetto all'esecutivo Letta, ma al di là delle aspirazioni personali, il leader del Nuovo Centrodestra teme che, fatta la legge elettorale, Berlusconi e Renzi vogliano le urne. Di qui la richiesta che l'Italicum entri in vigore dopo la riforma del Senato. Dal PD è Del Rio a gettare acqua sul fuoco. Il vertice di maggioranza è andato bene. Simona Bonafè aggiunge: è questione di poche ore e avremo la nuova squadra di governo, un governo solido, un governo di svolta, un governo che sono convinta risolverà i problemi del nostro paese non a chiacchiere ma coi fatti. Quanto al Toto Ministri, la casella più importante, quella dell'economia, vedrebbe un testa a testa tra l'attuale presidente dell'Istat Padoan e Tabellini, ex rettore della Bocconi. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Quindi pensate a quale nome di ministro volete assolutamente nella squadra. E intanto c'è la scia del match in streaming di ieri tra Renzi e Grillo. Quattro senatori del Movimento 5 Stelle, messi poi all'indice oggi sul blog di Grillo, in una nota congiunta criticano Beppe Grillo per l'incontro con Matteo Renzi. Questi sono Lorenzo Battista, Fabrizio Bocchino, Francesco Campanella e Luis Alberto Orellana, che esprimono le loro perplessità. Allora sentiamo Orellana, che è stato intervistato oggi da Simone Spezia a Effetto Giorno. Noi ci siamo trovati a commentare tra alcuni colleghi qui al Senato questi 9 minuti di incontro tra Grillo e Renzi, e ci sono venute fuori delle perplessità che abbiamo espresso pubblicamente in questa nota, in cui segnalavamo forse che era meglio, sarebbe stato più produttivo, e più, insomma, come immagine per Beppe stesso e per tutto il movimento forse un diverso atteggiamento. Siamo rimasti un po' perplessi di questa modalità, poi sono rimaste certe frasi riportate un po' in tutti i media, non ti do il minuto, eccetera, eccetera. Quindi insomma secondo noi abbiamo espresso questo. Poi effettivamente questa notte, verso mezzanotte, è uscito questa nota, questo post non firmato. Immagino che quell'ora non fosse sotto la supervisione di Beppe o di Casaleggio, quindi mi domando chi è che scrive nel blog. Lei non ci pensa proprio a lasciare il gruppo del Movimento 5 Stelle? Ma io credo che stia facendo un grosso lavoro qui, nonostante le grosse difficoltà, quindi vorrei continuare assolutamente su questa strada. E possiamo anche parlare del fatto che lo stop al finanziamento pubblico ai partiti adesso è legge. Ecco quello che cambia. Così il Movimento 5 Stelle ha protestato alla Camera dopo il via libera definitivo ai rimborsi elettorali ai partiti tramite contributi volontari dei cittadini. I grillini hanno esposto in aula cartelli con le scritte "Mollate il malloppo" e bugia numero 1 "Renzi Pinocchio". La nuova legge abolisce il finanziamento pubblico diretto e indiretto ai partiti e lo sostituisce con agevolazioni fiscali per i contributi volontari dei cittadini e la possibilità di destinare allo stesso scopo il 2 per 1000 IRPEF. I movimenti politici potranno accedere al nuovo sostegno economico se avranno i requisiti richiesti dal nuovo registro nazionale, che dovrà indicare statuto, organi associativi, funzionamento interno e bilanci. Le donazioni singole non potranno superare i 100.000 euro. Inoltre gli immobili di proprietà dei partiti dovranno pagare l'IMU. Paolo Panceri, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Nel frattempo gli industriali auspicano tempi brevi per il governo. Ci auguriamo che sia un governo capace di veramente di operare per dare delle risposte ad un paese che è stremato da una crisi che ormai sta durando da 6 anni. Un governo che sia dunque capace di operare e di farlo il più in fretta possibile, questo l'auspicio espresso dal presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi. Del resto ancora ieri gli industriali avevano lanciato l'allarme per una ripresa che appare troppo flebile e per un'emorragia di posti di lavoro che non si arresta, una situazione complessa, dice Squinzi, nella quale il tema del rilancio delle politiche industriali deve a questo punto diventare centrale. È un governo che non dimentichi che non c'è ripresa senza impresa. Quanto al Toto Ministri, Squinzi preferisce non partecipare e alla domanda se all'economia sarebbe meglio un tecnico o un politico risponde così. Noi non ci poniamo problemi di questo tipo, quello che noi sogniamo è un ministro dell'economia che possa prendere i provvedimenti che servono all'economia e al sistema delle imprese del nostro paese. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Il fatturato dell'industria torna a scendere dopo il rialzo di novembre, quando si era interrotta una striscia di segni meno lunga a 22 mesi. Una mano dà e l'altra toglie, secondo l'analisi del fatturato dell'industria fatta dall'Istat. Nel 2013 infatti ha registrato una contrazione del 3,8% rispetto al 2012, mentre per gli ordinativi la flessione è stata pari all'1,3%. In entrambi i casi i ribassi sono dovuti al mercato interno, che toglie e mangia i vantaggi ottenuti fuori confine e arrivati dall'estero. E per il mese di dicembre il fatturato torna a scendere con un ribasso corretto per effetti di calendario dello 0,6% sull'anno. Anche qui brucia il rialzo di novembre, quando si era interrotta una striscia di segni meno lunga 22 mesi. E anche il dato congiunturale è in calo, meno 0,3%, mentre al contrario del solito a pesare è il mercato estero. E sempre a dicembre gli ordinativi dell'industria diminuiscono del 4,9% rispetto a novembre, mentre restano positivi su base annua, in crescita di quasi 2%. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo alla cronaca con un fatto tremendo che è avvenuto a Casalnuovo. Per una multa di 2.000 euro un uomo si è suicidato. Un verbale di 2.000 euro per aver trovato nel negozio a lavorare la moglie senza alcun contratto. Una cifra esagerata in tempo di crisi da pagare entro mezzogiorno e da cui sarebbe seguito un ulteriore verbale di 9.000 euro. Il titolare di un panificio a Casalnuovo, nel napoletano Edoardo De Falco, ha deciso di farla finita togliendosi la vita. In auto, sotto casa, si è lasciato morire inalando monossido di carbonio dal tubo dell'auto. A trovarlo un vicino che ha avvertito la moglie. Una vicenda che ha sconvolto tutti, soprattutto i commercianti del luogo, increduli dopo aver appreso la notizia. Carmelo Prestisimone, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli. Torniamo sulla politica, quella locale, ma non del tutto. In Sardegna è caos sulle elezioni regionali che hanno visto vincitore domenica scorsa Pigliaru, Francesco Pigliaru. I seggi non tornano. Scoppia la bufera sulla nuova legge elettorale sarda, quella approvata lo scorso novembre nell'isola, che ha sancito la vittoria il 16 febbraio scorso del candidato del centro-sinistra Francesco Pigliaru. Se non ci sono problemi sull'elezione del governatore, lo stesso non si può dire per quanto riguarda l'attribuzione dei seggi per il Consiglio regionale. A mandare in tilt il calcolo, provocando uno squilibrio della rappresentanza ai danni delle circoscrizioni più piccole, il meccanismo del premio di maggioranza, le molte liste e l'alto numero di voti disgiunti. In sostanza vengono premiati i territori più rappresentati, cioè quelli con più elettori, ai danni delle circoscrizioni più piccole. Ad esempio Sassari prende 3 consiglieri in più, mentre Medio Campidano ne perde 2. Protesta Michela Murgia, che nonostante abbia ricevuto il 10,3% dei consensi non ha eletto nessun rappresentante in consiglio perché le liste alle collegate non hanno raggiunto il 10%, ma le critiche sono bipartisan. Basti pensare che Giampiero Scanu, leader del PD in Gallura, sta valutando un ricorso alla Consulta che potrebbe addirittura portare all'annullamento delle elezioni. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E arriviamo così alle Olimpiadi Invernali. C'è stata una straordinaria esibizione di Caroline Kostner nel programma libero del pattinaggio di figura ai Giochi di Sochi. La 27enne di Bolzano si è esibita sulle note del bolero di Ravel e ha conquistato la medaglia di bronzo. L'oro è andato alla russa Adelina Sutinkova, l'argento alla campionessa uscente, la coreana Yuna Kim. E a questo punto vogliamo far sentire che cosa sta succedendo a Sanremo, vediamo se non ci siano imprevisti stasera. Ho trovato il collante delle Kessler, sì. Ho provato a metterseli, sembra diabolico, perché le arrivano fino a qua. Poi c'è la Noemi che si è fatta la tinta, l'ha sbagliata, sembra un piatto di spaghetti alla puttanesca. Sì. Poi c'è la Ruggero che sta provando gli acuti, ha già rotto tutte le gocce dei lampadari del casino. Marta Cagnola, nostra inviata a Sanremo, insomma, si cerca qua, ciao Marta, di risollevare un po' le sorti con un po' di umorismo iniziale di Luciana Littizzetto, perché ieri l'altro ieri insomma non sono andate molto bene queste serate, no? Ma guarda, la prima serata c'è stato un calo poi relativo, perché insomma, l'abbiamo detto, il panorama televisivo sta cambiando, quindi un piccolo calo ci stava. Invece ieri sera ben più forte, certo, la complicità del calcio, però devo dirti che non ha dato spazio a grandi compromessi Fabio Fazio, perché in realtà ha cominciato con il previsto omaggio al maestro Abbado, quindi questa insomma, sera piuttosto, sì questa sera, quindi insomma uno di quei momenti di televisione non particolarmente popolari, non una grande concessione al popolare, le nozze di Figaro, il teatro, l'orchestra del teatro La Fenice di Venezia diretta dal maestro Mateus, un omaggio come previsto al maestro Abbado. Questa sera ci saranno i 14 cantanti, il primo sta per iniziare, che è Renzo Rubino, con le 14 canzoni scelte, poi ci sarà un monologo di Luciana Littizzetto, l'Arbore e l'Orchestra Italiana, quello sì, sarà un grosso momento popolare, invece gli altri due ospiti, il bellissimo astronauta Luca Parmitano e Damien Weiss, saranno in realtà molto tardi, prima della gara dei giovani, che ieri non è iniziata prima di mezzanotte. Arriverà con la sua capsula spaziale, Parmitano? Non hai notizie? Guarda, Roberta, ti devo confessare che oggi ha creato molto turbamento in sala stampa, perché è un bellissimo ragazzo, molto intelligente, con un sacco di cose interessanti da dire. Siamo rimasti tutti e tutte molto conquistati. Immagino, sprecato nello spazio, deve stare coi piedi a terra, quindi qua sul pianeta con le sue conquiste. Sì, perché poi lassù tutto solo, dai, non va bene. Marta, quindi a parte i baglioni di ieri, i richiami anche nostalgici con Franca Valeri, le Kessler, stasera quindi omaggio a Bado, e poi hai detto che... Sì, anche questa sera sempre un po' di nostalgia, perché insomma il filone dei 60 anni della televisione italiana è un po' uno dei fil rouge di questa edizione. La memoria si dà questa sera a Renzo Arbore. Bene, grazie Marta Cagnola, poi vediamo se ci sarà tempo di collegarci più tardi, buon divertimento intanto a Sanremo. Grazie, a presto. Sto cadendo, vorrei svegliarmi a mezzogiorno di una vita senza fretta. E chi vorrebbe non svegliarsi a mezzogiorno? Così canta Renzo Rubino per il momento. Noi non lasciamo la sua canzone al Festival di Sanremo e ci fermiamo per aggiornare chi sta viaggiando. Poi parleremo di vari temi. Vi ricordo, c'è la pagina Facebook di Effetto Note/Roberta Giordano, oppure messaggi al 349-238-6666 per fare i vostri commenti. Ma in particolare dite quale nome vorreste assolutamente trovare nella squadra di governo tra i ministri che Renzi presenterà sabato. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. pubblicità e questi acuti sono di Renzo Rubino al pianoforte sul palco di Sanremo anche stasera, terza serata, vediamo se si riscatta rispetto ai flop di queste prime due. Ma adesso andiamo su cose molto molto serie. Partendo dall'Ucraina, è ormai guerra civile, spari per strada, evacuati i palazzi del potere, almeno 100 vittime e l'Europa vara le sanzioni. Per quanto riguarda il governo italiano, la strada è ancora in salita, manca l'accordo sulle riforme e sull'economia, però Renzi si dice al momento ottimista. A Napoli si suicida un commerciante dopo essere stato multato perché la moglie lo aiutava senza contratto. Alle Olimpiadi di Sochi, Caroline Kostner vince la medaglia di bronzo nel pattinaggio artistico. Per il calcio Europa League, la Juve batte il Trabzonspor per 2-0, la Fiorentina batte 3-1 l'Esbjerg. E a Sanremo, come dicevo, dopo il flop della seconda serata, al via la terza oggi con omaggio ad Abbado. Bene, dicevo, argomenti seri, questo è un argomento serissimo, la crisi ucraina, Kiev ormai nella capitale, è un massacro, ci sono almeno 100 morti, si parla di centinaia di feriti, quindi è durata giusto una notte, qualche ora, la tregua, poi un altro bagno di sangue e Kiev è ripiombata nel caos, oggi sono stati evacuati il palazzo del governo, il palazzo del Parlamento, insomma una situazione terribile che vorrei cercare di capire, grazie all'aiuto di Antonella Scott, inviata del Sole 24 Ore e grande esperta dell'area. Ciao Antonella. Salve, buonasera. E Leonardo Morlino, buonasera a lei. Buonasera a voi. Docente di politica internazionale comparata e scienza politica alla Luis Guido Carli. Da Antonella Scott, intanto, visto che ha seguito da vicino la situazione, Antonella, vorrei ci raccontassi come tutto questo è iniziato, perché è iniziato a novembre e forse ci poteva stupire che queste proteste di piazza fossero per i desideri europeisti della popolazione, nel senso che il presidente Yanukovych stava facendo lunghi negoziati con l'Unione Europea. Poi alla fine questi negoziati invece sono stati interrotti per l'intervento della Russia, che ha detto lascia stare l'Unione Europea, ti pago io dei miliardi, 15 miliardi di prestito più o molti di più, adesso non ricordo precisamente, e quindi Yanukovych, che è dato per filo russo, si è spostato tutto sul fronte russo e ha interrotto questi negoziati con l'Unione Europea. Viene quasi da sorprendersi, insomma, adesso che si parla con tanta criticità dell'Unione Europea, qualcuno dice usciamone, l'Unione Europea ci rovina, e un popolo che addirittura si fa ammazzare per farne parte. La questione è più complessa, no Antonella? Sì, certo, questa è guardano all'Europa, tra l'altro una parte degli ucraini, cioè quelli che abitano nelle regioni più vicine alla Polonia, all'Ungheria, alla Slovacchia, e che sono quindi anche tradizionalmente sempre stati più vicini all'Europa, mentre le regioni orientali si sentono anche linguisticamente, sono quelli dove sono le regioni in cui si parla più russo, sono più vicine alla Russia, sono anche legate economicamente come industrie, contratti alla Russia. C'è da dire che se la protesta appunto è nata per proprio la scintilla, è stata questo rifiuto di Yanukovych di firmare, come si era impegnato a fare, di firmare l'accordo di associazione che avrebbe avvicinato l'Ucraina all'Unione Europea, poco a poco, anche perché sia da una parte che dall'altra ci sono state provocazioni, ci sono provocazioni continue, la protesta è poi diventata sempre di più una protesta contro il governo, e quindi non più soltanto filo europea, ma proprio la prima richiesta adesso è che il presidente si faccia da parte. Leonardo Morlino, che storia è quella, in breve naturalmente, dell'Ucraina? Allora partiamo dagli ultimi 3-4 anni e poi, se volete, torniamo indietro. Sì. Fine febbraio 2010 Yanukovych eletto entra al potere. Lui alla fine ha un disegno, e il disegno è portare fuori dalla democrazia l'Ucraina e gradualmente instaurare prima un regime che noi chiamiamo ibrido, diciamo a metà tra democrazia e autoritarismo, e poi giungere a un regime autoritario. L'accordo di associazione con l'Europa, questo della fine dell'anno scorso, era un momento chiave, perché l'accordo di associazione avrebbe potuto riportare indietro e fermare il disegno Yanukovych. Invece Yanukovych aderisce ovviamente alle profferte di Putin, perché gli aspetti interni, e quindi l'opposizione, mantenere la democrazia, spingere per la democrazia, si intrecciano con gli aspetti esterni. Putin deve fare la sua area di commercio alternativa, di mercato singolo alternativa all'Unione Europea, e per questo ha assoluto bisogno dell'Ucraina. E questo è il punto sostanziale. Cioè, da una parte c'è la partita, l'Ucraina diventa un regime autoritario oppure no? E dall'altra Putin riesce a imporre per i propri mercati, per la propria produzione industriale, un'ampia area di commercio o no? Tenga presente un'ultima cosa, poi mi fermo, se vuole andiamo più a fondo, più indietro. Sì. L'Ucraina che aderiva all'associazione, all'accordo di associazione con l'Unione Europea, poteva significare delle merci, dei beni che entravano in Ucraina e poi entravano in tutto il resto di quest'area di commercio, di quest'area di libero mercato, di quest'area di mercato unico di cui sto dicendo. Quindi era qualcosa anche molto negativo, essenziale per Putin e per il disegno neoimperialista che Putin sta realizzando, e sta realizzando con lucidità ed efficienza. Ma cioè sta cercando di ricreare l'Unione Sovietica praticamente o cosa? No, adesso non esageriamo, l'Unione Sovietica non la può ricreare e lui stesso non ha in testa di ricrearla, però come dire, un'Unione Sovietica in altri termini e con altri mezzi, dove gli aspetti economici, commerci, migliore produzione, maggiore produzione sono elementi fondamentali, perché lui poi ha anche i suoi problemi interni con la sua opposizione, la necessità di mantenere un potere autoritario che ha in questi anni, che è riuscito a stabilizzare, insomma un po' di problemi ce l'ha anche lui. Ma voglio chiedere a Antonella Scott, visto che il professore Morlino parla di un sfogo del mercato russo anche in Ucraina, che è importante, ma l'Ucraina a livello economico che paese è? Un paese di grandi consumatori, nel senso, quindi il tenore economico che punto sta? Beh, sta cominciando a crescere, i consumi sono in aumento, e quindi è un paese che anche se appunto a livello di conti pubblici è in grosse difficoltà, poi nella realtà la fotografia è migliore, è ben diversa, però dobbiamo sempre ricordare appunto che le regioni orientali sono quelle in cui la gente, i posti di lavoro sono strettamente legati a industrie che sono, soprattutto l'Ucraina è un grande produttore di materie prime, di acciaio, e che sono legate a, proprio perché l'Unione Sovietica non è venuta meno tantissimo tempo fa, quindi ci sono ancora dei fortissimi legami e molte cose che vengono, cioè molti contratti che vengono che partono dalla Russia, l'Ucraina non avrebbe magari modo di avere lo stesso tipo di richieste da parte dell'Unione Europea, proprio perché le sue produzioni sono magari accettate in Russia ma non nell'Unione Europea. Quindi nel bilancio tra quanto potrebbe aiutare la Russia e quanto potrebbe aiutare l'Unione Europea, bisogna considerare tutte queste cose, una maggiore, cioè barriere meno alte nei confronti dell'Unione Europea significherebbero per l'Ucraina una maggiore presenza e facilità di importazione di prodotti più competitivi rispetto a quelli ucraini, che magari farebbero felici diversi consumatori che se li possono permettere, ma metterebbero in difficoltà produttori locali. È un quadro che è comunque tremendamente intrecciato sia da una parte che dall'altra, e che forse è proprio alla base del grosso dilemma in cui si dibatte l'Ucraina, il voler essere più vicina all'Europa è comunque una storia che la lega ancora alla Russia. Professor Morlino, non so se lei molto sinteticamente voleva ritornare un po' più indietro rispetto agli ultimi anni. Sì, posso aggiungere? una cosa semplice. Sì. L'Ucraina ha circa 45 milioni di abitanti ed è il più grosso dei paesi nelle immediate vicinanze della Russia. E questo è molto quindi, interessante. E quindi la Russia deve per forza accaparrarsi l'Ucraina. Non ha alternative. Putin non ha alternative. E Putin deve fare di tutto per tenersi l'Ucraina. E noi, gli europei, su questo sono stati altalenanti. Se noi torniamo di 10 anni indietro, mi diceva lei, c'è stato un momento, 2003, 2004, 2005, 2006, in cui c'è stata una montagna di dollari che è arrivata in Ucraina. Chi dava di più era la Germania, più dell'Unione Europea, ed erano gli Stati Uniti, che hanno fatto grossissimi investimenti per spingere l'Ucraina, diciamo, verso una democrazia minima, almeno. E 7-8 anni fa, per chi di noi aveva studiato, poi aveva lavorato sull'Ucraina, aveva fatto ricerche in Ucraina, sembrava che l'Ucraina si avvicinasse, potesse essere una democrazia. Poi la situazione è cambiata, la stessa posizione europea è diventata diversa. Dopo l'allargamento del 2004 l'Ucraina non è stata, malgrado le pressioni di diversi intellettuali, malgrado un'accertazione di diversi politici anche europei, anche inglesi, l'Ucraina, c'era una sorta di accordo tacito per cui l'Ucraina sarebbe stata uno stato cuscinetto, come è stato, diciamo, anche tradizionalmente in passato, tutto sommato nell'orbita russa, nell'ambito di una Russia più debole. Senta, Morlino, poi anche questo si è evoluto, ecco. anche questo è cambiato, e a questo punto poi c'è stato un indebolimento europeo, una notevole ambiguità della Germania, che ha stretto dei legami molto forti, come sappiamo, hanno interessi molto forti con la Russia. L'Unione Europea totalmente paralizzata, e poi siamo arrivati a questo accordo, all'elaborazione di questo accordo di associazione, iniziato, diciamo, che è durato moltissimo e che poi sembrava arrivare adesso alla fine, ma dove si è scontrato con gli aspetti interni che abbiamo detto. Quindi la situazione, come al solito, è sempre più complessa e articolata di quello che sembra, anche ritornando un po' indietro negli anni. Poi c'è di mezzo anche la vicenda della Timoshenko, che faceva opposizione, è stata... Esattamente. No, fa ridere, se pensate che la Timoshenko è in carcere per chi ha favorito i russi, no? Per un'accusa di aver favorito i russi. Appunto, proprio adesso che Yanukovych, che l'ha eliminata, l'ha fatta incarcerare, insomma, no? Sta andando così, tanto verso la Russia. È un assurdo che dimostra quello che dicevo prima, l'intreccio tra aspetti interni e aspetti esterni. Ora, c'è un altro punto importante che forse va capito. Yanukovych è solo e la facciata, ci sono dietro in realtà questi famosi oligarchi, questi che hanno preso il potere praticamente all'indomani della caduta del comunismo. Si potrebbe dire di sì. Però qui siamo in una situazione classica in cui il politico è la facciata nella fase di cambiamento, ma se Yanukovych riuscisse a diventare, come vuole diventare, il leader autoritario ucraino, lui anche si sbarazzerebbe anche di questi oligarchi, come al suo tempo ha fatto Putin. Certo. Bene, al momento, insomma, la situazione, almeno ce l'abbiamo, spero anche per gli ascoltatori, più chiara, e non so effettivamente come procederà. Adesso sono state annunciate le sanzioni da parte dell'Unione Europea, vedremo in cosa consisteranno. Ringrazio molto Antonella Scotto, con la quale avremo occasione di risentirci anche prossimamente. Ciao Antonella. Grazie a voi. E il professore Leonardo Morlino, grazie, buona serata. Grazie a voi tutti. C'è la pubblicità e poi tra poco. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Eccoci di nuovo insieme, Roberta Giordano con voi, sempre la pagina Facebook a vostra disposizione, la pagina Facebook di Effetto Notte. Abbiamo parlato di Ucraina, dopo che vi ho raccontato in sintesi la giornata. Adesso ci spostiamo sulla politica, però prima di tutto vi ricordo, sempre dopo le pause, quali sono stati gli argomenti centrali di oggi. naturalmente in primissimo piano c'è purtroppo l'Ucraina in fiamme, ormai è guerra civile, ci sono spari per strada, sono stati evacuati oggi i palazzi del potere, si parla di almeno 100 vittime, centinaia di feriti e l'Europa si decide a varare le sanzioni. Per quanto riguarda il governo italiano, la strada ancora insomma è in salita, però Renzi si mostra ottimista e dice questione di poche ore, sabato ci sarà la squadra. A Napoli si suicida un commerciante dopo essere stato multato perché la moglie lo aiutava senza contratto. Alle Olimpiadi di Sochi, medaglia di bronzo per Caroline Kostner nel pattinaggio artistico. E poi per il calcio, l'Europa League, la Juve batte 2-0 il Trabzonspor e la Fiorentina 3-1 l'Esbjerg. E poi per quanto riguarda Sanremo, questa è la terza serata, vedremo poi più tardi se risalirà l'audience visto diciamo i non buoni risultati della prima e della seconda serata. Bene, adesso parliamo della politica italiana, parliamo dei fatti nostri, di casa nostra, aspettando il governo Renzi. Renzi sta continuando a trattare, sta preparando il programma e si dice effettivamente ottimista. Sentiamolo. Dov'è la macchina? La macchina? Parli? Voglio andare via. Voglio andare via. Abbiamo. Questione di ore, chiudiamo tutto. Buona giornata, arrivederci. Ciao. Tutto bene? Chiudiamo tutto, grazie. Bene, avete sentito, quindi sempre di fretta, sempre con l'aria da persona molto fattiva, dice poche ore e chiudiamo, però in realtà diciamo che oggi qualche scoglio c'è stato dopo Grillo di ieri, che però diciamo era abbastanza prevedibile questo incontro-scontro e questa chiusura da parte di Grillo. Oggi, anche se sembrava giorni fa la strada liscia nei confronti del nuovo centrodestra, che prima aveva fatto delle premesse, aveva dettato le condizioni, sembrava che tutto fosse tranquillo, invece oggi c'è stato uno stop degli alfaniani, ha detto Alfano non vogliamo un ministro affezionato alle tasse, ci sono delle criticità nel programma. Ora vediamo se riusciamo tra poco anche a raggiungere Cicchito del nuovo centrodestra per capire quali sono effettivamente queste criticità. Intanto saluto e ringrazio di essere qui Corradino Mineo, buonasera senatore. Buonasera a voi, grazie per l'invito. Senatore del PD e civatiano, possiamo dirlo, no? Abbastanza apertamente. Sì, giusto. Ho aderito alla mozione Civati durante le primarie, sì. Certo. Corradino Mineo, che ha grande coerenza, fra l'altro oggi sentivo in un'intervista Pippo Civati, appunto, che è stato candidato alle primarie insieme a Cuperlo e a Renzi, che rappresenta un po' una minoranza critica nei confronti di Renzi e che oggi ha detto non è detto che gli accorderemo la fiducia e poi se non votiamo la fiducia potremmo uscire dal partito. Le conferma, Mineo? Ah, guardi, la situazione è delicatissima perché tanto diciamo una cosa, sia io che Civati speriamo che Renzi faccia bene, perché c'è una parte importante del paese che si aspetta che il governo governi, che si esca dallo stallo delle larghe intese, che l'Italia risalga un po' la china, questo deve essere chiaro. Dopodiché ci sono delle criticità, innanzitutto il modo con cui si è arrivati al governo Renzi non ci è piaciuto, perciò Civati e gli altri che sono in direzione hanno votato contro, perché è dovuto essere il PD a risolvere il problema Renzi Letta, per quale motivo si è passati da uno schema in cui sembrava che si potessero fare poche cose e poi prepararsi per il voto ad uno schema diverso con un governo di legislatura e poi, soprattutto come si fa a fare un governo di legislatura con Alfano che sostiene che questo non è un governo politico ma è un governo destra-sinistra, una specie di replica delle larghe intese però con numeri risicatissimi in Parlamento. Tutto questo è da chiarire. Lei pensi una cosa, che il nuovo centrodestra significa per esempio sulla questione morale, sulla questione della corruzione che è fondamentale anche per risalire la china dell'economia e dell'efficienza in Italia, penso delle cose completamente diverse da quelle che pensiamo tutti noi. Ecco, voglio dire, io vorrei tanto che passasse una legge che arresti i termini della prescrizione dopo il giudizio di primo grado, è quello che ci chiedono tutti i giudici antimafia, loro sono quelli dello Dolfano, sono quelli delle leggi contro i magistrati e a favore dei soliti noti, quindi i problemi ci sono tutti. Da questo punto di vista Civati molto opportunamente ha chiesto un chiarimento a Renzi, perché vede, è strana anche questa storia, siccome le trattative sono fatte in un certo modo, Alfano, Cicchito e compagni hanno una grande possibilità di interdizione, un'area vasta dentro il PD che vive un disagio. Ieri quando si è sentito parlare addirittura dell'appoggio del GAL e di Cosentino, c'era l'insurrezione al Senato, sì, anche tra le fila di non civatiani, invece non è completamente ascoltata. Ecco, è una cosa che va chiarita. Quindi dice, insomma, col nuovo centrodestra effettivamente siete un po' all'opposto, le larghe intese forse erano un momento emergenziale, adesso diventa più difficile, nel senso non si può fare un governo di legislatura, cioè che vada avanti davvero degli anni. Sentiamo che cosa ha detto, visto che non riusciamo a raggiungere Cicchito, un suo collega di partito Quagliarello. Mi sembra che sia un primo passo, abbiamo sentito una sintesi programmatica, ora andrà valutata e dobbiamo poi, ancora c'è ancora tanto lavoro e tanti nodi da sciogliere. È evidente che insomma, sono stati soltanto esposti dei punti, quindi è assolutamente normale che delle criticità ci siano. Ora, insomma, nelle prossime ore bisognerà vedere se si risolvono. Mentre invece, Corradino Mineo, oggi Taddei, che è responsabile dell'economia per la segreteria del PD, ha detto il tesoro deve essere credibile, deve essere preparato, cioè il ministro dell'economia dovrà fare una riforma sulle tasse del lavoro, agire credibilmente sull'Europa. Lei ha in mente un nome preciso, voi civatiani, diciamo? Ma non ci pensiamo proprio, no. A consigliere nomi non ci pensiamo proprio, veramente. L'unica questione è quella, per esempio la riforma del lavoro di cui parla Taddei, di cui parla Renzi, è una cosa importante del programma del governo, così come dovrebbe essere importante un po' un capovolgimento della politica in Europa, che non significa che noi non facciamo le riforme, dobbiamo farle, come, a cominciare dalla questione della corruzione, che secondo me è il vero spread tra l'Italia e gli altri paesi, ma insomma non possiamo stare ai vincoli europei. Persino la Bundesbank parla di una patrimoniale, tutte queste cose. Renzi come le fa con questo freno a mano inserito del nuovo centrodestra? E poi, va bene, Grillo ha dato vita ieri a questa sceneggiata antidemocratica che si commenta da solo, però non è che noi possiamo lasciare per un altro anno Fell, che pure aveva appoggiato la coalizione di Bersani, ve lo ricordate, o il Movimento 5 Stelle, dove ci sono anche istanze molto positive, non soltanto diciamo questo cavagliesco modo di fare di Beppe Grillo ieri nell'incontro, confinati all'opposizione perché votiamo provvedimenti del governo senza neanche esaminarli perché non si può. Ecco, tutto questo deve finire, su queste cose noi chiediamo un chiarimento. Al Senato, vede, se si fa un governo come quello che si rischia di fare, poi questo governo non regge, perché i numeri sono risicatissimi. Io voglio vedere come si fa, come facciamo noi a non parlare di diritti civili, e questo ci divide dagli alfaniani, a non parlare di corruzione, ripeto per la terza volta, ma anche sul lavoro, ad assumere punti di vista come quelli di Sacconi, che è stato il peggior ministro del lavoro, tutto intento a punire CGIL, FIOM e quanti altri, a dividere il sindacato. Queste sono le contraddizioni che vanno sciolte. Senta, cosa ne pensa, senatore mio, della vicenda Barca? Ma la vicenda Barca, quello che mi ha sorpreso di più, francamente, è che il nome di Barca, come quello di Lucrezia Reichlin, un'altra personalità, stava sui giornali da giorni, sì, tanti giorni, lei come me sa come funzionano i giornali, da dover ritenere che non fosse, come dire, un'invenzione, no? E poi però si scopre da questa telefonata. Io non amo questo modo di giornalismo dei nostri colleghi, amici della Zanzara, preferisco un altro modo di scoprire le cose. Ma insomma, si scopre che Renzi non ha mai telefonato a Barca, lo ha fatto chiamare da Del Rio e poi ci sono state telefonate di una collega. Ma questo non va. Se tu vuoi mettere Barca al Ministero, guardate che Barca è anche una delle poche persone che può attuare quella intenzione di Renzi di far funzionare la macchina statale, la burocrazia, perché le competenze in questo campo sono ridottissime e Fabrizio Barca è uno dei pochi che è capace di far questo. Ma se tu fai un'operazione politica di questo tipo, lo chiami, non lo chiami, lo fai chiamare dal Rio. Ma ci sono dei dubbi. Se ha fatto così anche con la Reichlin, sono sicuro che la Reichlin avrà detto no, eppure la Reichlin è apprezzata da metà dei banchieri centrali d'Europa. Questo, c'è qualcosa che non funziona intorno al modo di procedere per la formazione del governo. Questo è il punto. Io, per quanto riguarda Berger, quella è la cosa che mi ha stupito di più. Poi c'è caduto e ha raccontato la sua fortissima preoccupazione. Poi io conosco bene Fabrizio Barca e so che condivide con me l'idea che però c'è un'Italia che spera che Renzi comunque riesca a fare qualcosa. Senatore... Però non, in questo qualcosa non coinvolgi uno come Barca se apri in questo modo strano, ecco. Senatore Mineo, proprio velocemente due ultime domande, perché sto per chiudere. Se uscite come Civatiani dal PD, che fate? Un altro partito o cosa? Ah, guarda, intanto io non penso proprio che siamo a questo, perché ho sentito anch'io l'intervista di Civati a Repubblica TV ed era diciamo un'ipotesi. La domanda era ad oggi è più orientato a votare il sì o il no? Civati ha detto no, perché era proprio il momento, è il momento dei maggiori dubbi, delle maggiori contraddizioni. Poi sai, usciamo e vediamo qual è lo schema, che cos'è il partito, vediamo che cosa succede. Io quello che le posso dire di certo è che c'è la possibilità, e questa sì è un fatto politico, ci sarebbe la possibilità al Senato di costruire un, si ricorda che la proposta di Civati è stata con una battuta, nuovo centro-sinistra, diciamo come contraltare del nuovo centro-destra. Sì. Ecco, c'è la possibilità di un gruppo con noi, con Sinistra Ecologia e Libertà e con un certo numero di senatori del 5 Stelle, che sarebbe una novità molto positiva, perché rappresenterebbe veramente un contraltare alle spinte, al freno a mano, diciamo, inserito nella coalizione. Se si potesse fare questo sarebbe una cosa importante. Ultimissima domanda, proprio devo proprio lasciarla, mi perdoni senatore Mineo, però mi stava a cuore questo. Allora, giorni fa Berlusconi ha detto che Alfano e quelli del nuovo centrodestra sono utili idioti. Alfano ha risposto: Berlusconi è circondato da inutili idioti. Oggi Cicchito ha detto: Renzi è un utile idiota. Quanti idioti ci sono nella politica italiana, senatore? Mi sembra l'altra faccia del grillismo, ecco, no? Cioè, invece di parlare di politica si va agli insulti. Come vede, noi ci guardiamo bene dal cadere in questa deriva, poniamo solo questioni di programma, di rapporto con gli italiani e non certo questioni né di ministeri, perché c'è anche questo, no? Alfano ministro sì o no? Ma chiarissimo, qual è il problema? Chiarissimo, chiarissimo. Senatore Mineo, la ringrazio e la saluto e buon lavoro. Grazie a voi, buonasera. Grazie. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. A parte il governo Renzi che arriverà, a parte l'Ucraina in fiamme, e vedo anche in Egitto violentissimi scontri, polizia, tifosi, ultra al Cairo feriti. Come vedete il mondo è sempre molto in effervescenza, diciamo così, ma trasferiamoci proprio in Europa. La situazione economica europea, gli indicatori della crescita dell'Eurozona occupano la scena delle prossime elezioni a maggio per il rinnovo del Parlamento. L'economista Nouriel Roubini, ospite ieri di una tavola rotonda proprio sul futuro della zona euro, parla della crescita, del possibile impatto della tornata elettorale di maggio. L'ha intervistato Valeria De Rosa. Europa 24 notte. Verso le europee. Direi che il rischio teorico di break up, il rischio teorico dell'uscita della Grecia dall'euro, il rischio teorico dell'Italia e della Spagna sui mercati sia molto più basso oggi rispetto a uno o due anni fa. Ci sono segnali positivi nella zona euro rispetto al ritorno alla crescita. È diminuita la pressione fiscale, un certo qual ritorno alla competitività anche nei paesi periferici. Molto lavoro però è ancora da fare. La crescita potenziale è ancora bassa e ciò è dovuto al fatto che le riforme strutturali sono ancora da fare. La ripresa è ancora anemica a causa del credit crunch e dell'euro forte. Il rapporto tra debito pubblico e debito privato è ancora alto. La competitività non è stata ancora ripristinata. I progressi verso l'unione bancaria sono ancora parziali. Avete anche bisogno di un'unione fiscale, politica. C'è ancora un grande malessere perché la crescita è bassa e il tasso di disoccupazione è alto. L'austerity ha messo a dura prova i paesi periferici e c'è anche una certa stanchezza a proposito dei processi di salvataggio nel cuore dell'eurozona. Ma io credo che in queste negoziazioni la Germania e l'Europa siano stati pazienti, dando tempo ai paesi periferici, in cambio del graduale aggiustamento che questi paesi stanno facendo sul versante fiscale. Su altri fronti ci sono ancora contrattazioni, ma in molti paesi è cosa ormai accettata, anche se non ne sono contenti, che molto lavoro deve essere fatto ancora per far sì che la crisi finisca. C'è più sostegno alla ripresa ora. Ritiene che le elezioni europee di maggio possano influire in qualche modo sulla situazione economica europea? The European elections in May might lead to some of the more radical parties of the extreme right. Le elezioni europee in maggio potrebbero portare all'emergere dei partiti più radicali, dell'estrema destra, estrema sinistra e populisti. Potrebbero diventare più influenti, soprattutto laddove l'austerità ha colpito di più. I populisti potrebbero ottenere un buon risultato. Ci sono ancora partiti di centrodestra e centrosinistra che possono coalizzarsi per portare avanti quelle riforme necessarie in Europa e dare forza alla Commissione. Ma io penso che l'Europa debba pensare a un'agenda sulla crescita e sul lavoro, perché la gente continua a fare sacrifici e continuerà solo se vedrà una luce in fondo al tunnel. Avete bisogno di posti di lavoro, di crescita dei salari, di dare fiducia alle persone. Penso anche che, sì, le riforme dettate dall'austerità siano necessarie, ma macro politiche più semplici, come ad esempio quelle della BCE o l'unione fiscale, siano ugualmente necessarie per riattivare la crescita e creare posti di lavoro. Altrimenti la reazione negativa, sociale e politica, potrebbe essere seria, a cominciare dalle elezioni e a seguire con un'ulteriore debolezza dei governi periferici, che potrebbero anche cadere. Quindi non potete dare per scontati i progressi. Dovete fare molto di più, soprattutto su crescita e lavoro. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. Vedo che tra i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte, anche gli SMS, torna più volte il nome di Tito Boeri, vice rettore dell'Università Bocconi e anche spesso ospite qui a Effetto Notte come ministro dell'economia. Poi vedo un Maurizio Lupi, qualcuno cita Prodi, qualcuno richiama anche Enrico Letta, insomma, e qualcuno anche se stesso, diciamo, un'altra opinione di sé. Ma adesso invece vorrei parlare di Sanremo con Gianluca Nicoletti. Ciao Gianluca. Ciao cara. Conduttore di Melog tutti i giorni, cronache quotidiane alle 12.30. Gianluca, quindi diciamo che l'audience non è per niente buona, addirittura le prime due serate del festival, ieri e l'altro ieri, hanno avuto un calo che non si conosceva dal 2008. Qualcuno dà la colpa alla TV digitale, qualcuno, il direttore di Rai 1, alla concorrenza della partita di ieri del Milan, qualcun altro parla di una questione estetica, insomma, mi affido a te per una lettura. Erano abituati ai tempi di RaiSet, in cui non c'era controprogrammazione, perché c'ha lo stesso padrone Rai che Mediaset, quindi non si facevano concorrenza tra di loro fino a qualche anno fa. Adesso è chiaro, si deve fare i giochi con la concorrenza, ma sai, un problema di guarda, ce l'ho accesa adesso davanti al televisore senza audio e vedo un'anziana signora che dovrebbe fare la spiritosa con una scenografia, sembra ancora quella dei balletti di Lollure degli anni 50, e mi domando, ma perché la gente deve subire questa sorta di memento mori, questo ricordo implacabile di anni che sono lontanissimi, ormai non stanno più nella memoria di nessuno, chi quegli anni ha vissuti è ormai appannato dall'arteriosclerosi, dagli anni che sono passati, ma sì, assolutamente… stanno riproponendo un immaginario anni 50 pensando che è una figata. Io le sono viste ritirate fuori con la formaldeide delle gemelle Kester, ma è roba degli anni 50. Però a qualcuno fanno piacere e si ripercorre anche la storia della nostra cultura pop, sì, no? Vuoi vedere la decadenza stilica, ti uccide, ti ammazza, ti fa paura, ti atterrisce. Loro giocavano sul fatto che quando la Rai non da tec tec tec, la gente si divertiva, vedeva delle cosine antiche, era un po' il gusto del vintage, rivedevi le Kessler con le belle coscione tonde, con le calze coprenti che ti faceva mettere Bernabé perché non si attissassero gli italiani e poi magari facevano gli adulterini. Vederle oggi non c'ha senso di fronte al modello, vedi naturalmente il passaggio del tempo. Nessuno vuole vedere il passaggio del tempo. Purtroppo chi è passato nella storia del nostro immaginario degli ultimi 60 anni attraverso la televisione nazionale, possiamo ricordarlo nel momento del fulgore, ma vederlo decaduto con la dentiera e tenuto in piedi, con i cicli ternari, te l'immagini col catetere sotto, cosa terribile. Chiarissima la tua immagine, ma il tempo è passato anche per noi, purtroppo. Gianluca Nicoletti, avremo mille occasioni per sentirci, e domani come sempre Nicoletti alle 12:30 a Melog. Ciao Gianluca, noi ci sentiamo più tardi.